America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Mr. Speaker, the President of the United States. Beh, la liturgia è sempre quella, una grande tradizione della democrazia americana, il discorso sullo Stato dell'Unione dal Congresso. Ma veniamo alla sostanza. In the coming weeks, I will issue an executive order requiring federal contractors to pay their federally funded employees a fair wage of at least $10.10 an hour, because if you cook our troops' meals or wash their dishes, you should not have to live in poverty. Beh, avete sentito il presidente Barack Obama? Devo dire, il contesto è stato un contesto di politica interna, ve ne ho parlato ieri, ci sono elezioni a novembre, dunque bisogna in qualche modo stimolare l'elettorato, e Barack Obama ha puntato soprattutto su questa sua possibilità di fare dei decreti di vario genere, soprattutto un decreto, in modo particolare il decreto con cui potrà aumentare il salario minimo degli americani. Il salario minimo degli americani in questo momento è intorno ai $7, un livello che era stato innalzato ormai quasi 5 anni fa, e quindi negli ultimi 5 anni non c'è stato alcun aumento del salario minimo. Che cos'è il salario minimo? In realtà il salario minimo è fittizio, se vogliamo, perché è veramente il minimo legale a cui le aziende possono assumere dei salariati dipendenti che lavorano a tempo pieno e che hanno le trattenute fiscali, insomma dei lavoratori dipendenti fissi a tempo pieno. E in effetti in questi ultimi anni il costo della vita, nonostante l'inflazione tutti dicano sia sotto controllo, è aumentato. Si fa fatica a raggiungere la fine del mese per famiglie che magari hanno un reddito di $15,000 l'anno. Ecco, vi dicevo, il punto di riferimento è fittizio, perché per esempio a New York già semplicemente un lavapiatti magari riceve $13-14 all'ora, magari non è un salariato fisso dipendente, magari viene pagato come lavoratore part time, ma gli stipendi in America non sono naturalmente di $7 l'ora, arrivano a $16-20 per esempio per i lavoratori dell'auto che iniziano a lavorare adesso, e addirittura a $40-50 l'ora per coloro che avevano dei vecchi contratti quando le cose andavano meglio. Ma su questo salario minimo Barack Obama si gioca molte carte, perché è chiaro che quando si promette alla popolazione di aiutarli, di migliorare la propria posizione, l'idea è che si possono raccogliere più voti. A novembre ci sarà il rinnovo della Camera, il rinnovo di un terzo del Senato, siamo in piena battaglia elettorale, proposte importanti non avrebbero avuto alcuna possibilità di passare alla Camera controllata dai repubblicani, e dunque Obama ha scelto di, come dire, di volare basso. Nick Shute is here today with his boss John Serrano. John's an owner of Punch Pizza in Minneapolis. And Nick helps make the dough. Ecco, avete sentito che Barack Obama, proprio in riferimento al salario minimo, ha fatto il nome di un personaggio che si chiama John Saranno, un italo-americano che ha fondato delle pizzerie e che ha deciso di aumentare per conto suo, senza che ci fosse alcuna legge, il salario minimo già a $10. Non voglio entrare adesso in altri dettagli di questo programma di Obama. Si è parlato di immigrazione, Obama ha parlato di Siria, di Iran, di pace in Medio Oriente, di Afghanistan, ma direi che non ha fatto davvero notizia su quel fronte. Invece mi ha colpito questa storia di questo John Saranno, che a un certo punto ha passato un periodo in Italia e poi è tornato in America e ha deciso di fare delle pizzerie. E dunque l'ho cercato e sono riuscito a intervistarlo. Well, it was fantastic. It's a great honor to be recognized. Ecco, intanto ho chiesto a Saranno com'era, che emozione c'è a essere sul palco del presidente insieme a Michelle Obama, e come avete sentito ha detto: grandissima emozione, non me lo sarei mai aspettato, per me, per la mia famiglia è stato un momento indimenticabile, straordinario. E a quel punto ho chiesto a Saranno di raccontarmi un po' la sua storia, e sentite questa storia. I was born in Boston and my father got a Gillette running, got a job running Braun. Dunque lui va in Italia a 8 anni perché il padre, che è un dipendente della Gillette, in realtà trova un lavoro alla Braun a Milano, e quindi si trasferisce a Milano con tutta la famiglia, dove questo ragazzo, John, cresce e passa 7 anni della sua vita andando alla scuola americana. E qual è la storia? Un collegamento molto diretto con Milano per questa sua idea di fare le pizzerie. On the tram line back from school, we passed by Corso Vercelli, and there was a pizza place there called Tagino. Ve lo riassumo. John Saranno prendeva il tram numero 15, abitava a San Siro, andava alla scuola americana a Milano e lungo la strada si fermava con un suo amico in Corso Vercelli e andava dalla pizzeria da Gino, che è una piccola rosticceria dove fanno questa pizza. Allora, dice, la facevano col forno a legna. E dice, eravamo assidui frequentatori, io ho sempre avuto questa pizza nella mia testa e ho sempre sognato di portarla in America. Poi ha preso altre strade, ha lavorato con la Delta prima che fosse comprata dalla Northwestern. A un certo punto, 18 anni fa, ha deciso di mollare tutto, di mettersi in business con un socio aperto a St. Paul, a Minneapolis, questa pizzeria che si chiama Punch, perché gli è rimasta nella testa la pizzeria napoletana, voleva un simbolo di Napoli, ha preso Pulcinella, poi ha detto Pulcinella è troppo difficile, facciamo la traduzione in inglese di Pulcinella che è Punch. Quindi Punch Pizza è andata benissimo, perché adesso le pizzerie sono ben 9, ha cominciato con un piccolo negozio vicino a casa, adesso ha una catena di 9 pizzerie, ne vuole aprire una all'anno, piano piano si vuole espandere. Il trucco è, ha detto, importare i prodotti giusti dall'Italia, la mozzarella, i pomodori e soprattutto la pasta. Dice, ci abbiamo messo 3 anni per arrivare a fare la pasta nel modo giusto, ce ne sono voluti altri 18 per perfezionare il nostro prodotto. Perché, gli chiedo, ha aumentato questo stipendio senza che ce ne fosse bisogno? Beh, mi risponde Saranno, l'ho aumentato perché a un certo punto mi sono reso conto che prima o poi questo sarebbe successo, ho preferito farlo prima piuttosto che dopo per legare i nostri dipendenti alla nostra azienda, per essere pronti ad assorbire l'urto dell'aumento dei costi e anche per giocare d'anticipo sulla concorrenza. Insomma, Saranno, che ha conosciuto la pizza a Milano in Corso Vercelli, era ieri sul palco presidenziale, una storia di successo americano, una storia da sogno americano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di paese riunito, di esempi come quello di Saranno per questo paese riunito. Obama ne ha fatti altri 20, di un'America che cerca di trovare la strada per una sostenibilità della crescita, ma fatica a trovare l'unità. E dunque, come auspicio per l'unità, una canzone ormai tradizionale, Simon & Garfunkel, America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. To look for America. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.